Lupo Nair, Summersburgo. Benvenuti al nono episodio di Lupo Nair Summersburgo. Questa è la voce di Anni, la voce di Flamina, avete ascoltato all'inizio che ci salutava con la manina. Si tratta sempre della versione estiva di Lupo Nair, che non riesco ad andare in ferie, non vado al mare, no? Quindi che cacchio devo fare? Metto la musica tipo Exter Human o Extra Human da Berlino, c'è Mania, trattasi del progetto personale di Johannes Stabel, arrivato ormai al quarto album, mi pare, intitolato Shrunk. Il brano che abbiamo ascoltato ora invece era Shrunk, il brano che dava il titolo all'album. Bene, e ora passiamo a qualcosa di più ignorante, very ignorante. Sono i Portrayal of Guilt, ritratto della colpa, da Austin, Texas. Si spacciano per black metal, grind, post-hardcore, vengono definiti black and screamo, però è questa cosa con l'appartenenza al filone screamo li fa sì che non c'è una loro pagina su Metal Archives, per esempio. Però noi le ascoltiamo lo stesso, quindi dall'ultimo album Devil Music ascoltiamo il brano Where Angels Come to Die dei Portrayal of Guilt. DMX Crew, questo è il nome della ragione sociale di questo progetto, opera di Edward Upton, che ha 52 anni e sono anni, dagli anni 90, che penso siamo arrivati, non li conto, 30 album. Insomma, tutti molti usciti per la Reflex Records, l'etichetta di Aphex Twin, quindi pare roba buona. Che ne dite di questo pezzo che abbiamo ascoltato? Si intitolava Spiral Dance, dall'album Spiral Dance. E intanto che ci pensate, ascoltiamo Ruby Ate the Fig, una formazione tra desert rock, prog, metal, ma poco. Sono californiani dagli Stati Uniti, però sono capitanati dalla cantante originaria di Gerusalemme, Sharon Eliashar. E quindi c'è un retrogusto mistico e così, mediterraneo. Gilgamesh è il titolo dell'album di Ruby at the Fig, da cui ascoltiamo il brano Breathe, il mix singolo, quindi è il singolone di Ruby at the Fig, abbiamo pescato, eccolo là. Lupon Air, Summer Spurgo. Di recente sono stato sulle tracce dell'Orsa JJ4, quasi omonima di JJ Guasto, batterista del Curnalcol, che ora salutiamo. Ciao JJ! Mi trovavo in Val di Sole a un festival chiamato Le Parti di Ricambio, dovevo suonare con il mio progetto. Appena arrivati, però, ci becchiamo subito il live di una band Math Grind di Trento chiamata Ekbom, che hanno fatto un bel casino del Dio. C'avevano poi un nuovo membro che si occupava di noise sul palco per peggiorare ulteriormente la situazione. È stato bello, è stato bello. Quindi dal loro album omonimo dell'anno scorso abbiamo ascoltato il brano che è poi il brano più da Festival Bar che hanno tutto il disco, che era Per un pacchetto di cracker. Ora, diciamo, calmiamo un attimo gli animi con l'album, cioè l'EP di debutto di Lisa Luminari. Lisa Luminari è una giovincella di Montecarotto, che in inglese si dice Broken Dog Mountain, e ha fatto questo EP di folk molto intimo da camera da letto, direi. L'EP si intitola, aspetta, c'era un congiuntivo di mezzo. Sì, se potessi salirei con te. Dove? Non so, non so. Comunque, ascoltiamo un brano da questo EP intitolato Schiena e vediamo cosa succederà del suo futuro, Lisa Luminari. Ricordo il verde dei tuoi occhi nelle foto a carnevale. Ricordo e mi confondo, non comprendo il tuo tremare. Forse mi sbaglio, ma guarda, là c'è il mare. E riduco gli occhi a te, fisso un punto la tua schiena, poi riduco gli occhi a te, fisso un punto la tua schiena, poi dov'è? Riduco gli occhi a te, fisso un punto la tua schiena. Giocare all'infinito, tu la sfinge di un delfino. Forse mi sbaglio, ma Summerspurgo. Jesus Christus. Sempre bivaccando dalle parti del Trentino, quando siamo stati ospiti per ben 2 giorni dal Bite Attack, abbiamo avuto modo di conoscere altri, insomma, membri della scena underground nazionale e sentire un sacco di racconti di band bizzarre, progetti musicali bizzarri, tra i quali questo Licane Leppane è stato nominato, un rapper, hardcore rapper, meglio horrorcore rapper dalla Finlandia, da Oulu, Finlandia, quindi il punto più oscuro e nordico del paese, quasi scandinavo. E mi sono incuriosito perché è un tipo completamente fuori dai canoni del resto delle band coinvolte e sono andato ad ascoltare il suo ultimo album, Psicosomatista Soundia. È un album interessante, molto scarno, da cui però è tratto questo gioiellino che si intitolava, quello che avete ascoltato ora, Hai stavitto Jesus Christus, che cosa vorrà dire non lo so, ma c'era sicuro di mezzo Jesus Christus. Invece c'è di mezzo il diavolo in Devil's Gates, che è il titolo del brano che andiamo ad ascoltare ora, dei Mildreda, che è un progetto di IBM cattiva, di quelle cattive, dal Belgio. Jan de Wolf è il titolare di questa band, e dal suo ultimo album I Was Never Really There, uscito per la Dependent Records, ascoltiamo appunto il brano che l'ho detto adesso, come cacchio si chiamava, Devil's Gates, ma non è, aspetta, ho sbagliato disco? Ah beh, sì, ho sbagliato disco, non è da I Was Never Really There, ma bensì da Blue Devils, ecco, che è quel che l'altro è il disco 2021, questo invece è il disco 2023, da cui ascoltiamo appunto Devil's Gates. Dai, ce la possiamo fare? Sì, ce la possiamo fare, Mildreda! As much as we can try to forget the things we don't want to remember, we will never be able to delete them entirely. They're part of who we are. It's time for you to remember. Silent Dream. Luponer, Sammersburgo. Sapete chi sono i Tamburi Neri? No? Beh, sono un progetto di Claudio Brioschi e Andrea Barbieri. Sapete chi sono Claudio Brioschi e Andrea Barbieri? No? Nemmeno io. Beh, comunque si tratta di un progetto, Tamburi Neri, che esiste dal 2017, ma io me ne sono accorto solo adesso, per cui abbiamo ascoltato un brano. Dal loro ultimo album, La Notte, abbiamo ascoltato il brano La Notte, che dava il titolo all'album. E invece... E invece di da Skeletons on Me, ascoltiamo un brano diverso. Skeletons on Me è un progetto di Valentina Giani, dell'Alto Adige, però vive a Trieste, e niente, ha fatto un disco, ce l'ascoltiamo? Sì, dai, ce l'ascoltiamo. Ascoltiamo il brano Try, di Skeletons on Me. Oh, Chi l'avrebbe mai creso che dopo 30 anni abbondanti tornavano in circolazione i Sorrow? Sono una band di death doom metal da New York, Stati Uniti, che hanno fatto un album storico nel 92, Hatred and Disgust, e poi più niente fino a poco fa. L'anno scorso esce Death of Sorrow, che significa che forse devono andare in pensione, e c'è dopo 31 anni dall'album precedente, forse... caso. Death of Sorrow era il titolo dell'album e Giudizio Falsity il brano, e sì, erano i Sorrow, e questa che avete ascoltato era Lupo Nero Sammersburgo, la puntata di Ferragosto. Come ve ne vale se ascoltate sta roba a Ferragosto? Andate al mare, forse state già al mare ascoltando sta roba, dando fastidio ai vostri vicini di ombrellone, ma chi lo sa. Comunque, niente, la puntata finisce con, e vi lasciamo con UFO Shadow, o UFO Shadow, il progetto di Oberst Panizza insieme a Beryl Le Gallo, Cosmic Wave da Berlino, dall'album Hypergravité. Ascoltiamo il brano Abbandonato, loro sono UFO Shadow, questo era Lupo Nero Sammersburgo, a giovedì prossimo! UFO thank you. Lupo Nero Summerspurgo.